Seconda metà dell'Ottocento è un periodo veramente molto fecondo per l'arte, per la sperimentazione e anche un momento di ricerca per la società. Nella Mitteleuropa, in estensione guardando verso Oriente, qualcosa per quello che sarà l'Unione Sovietica, non solo in arte figurativa, ma anche nelle arti applicate, con lo sguardo ad Oriente. Ne parleremo poi nell'approfondimento dedicato all'avanguardia nel deserto. Per quanto riguarda la poesia, tra l'altro, ho portato alcuni scritti dal mio poeta preferito, Sergei Esenin. Partiamo poi con quello che è un viaggio verso Venezia per una sede espositiva che è Ca' Foscari, quindi molto molto interessante anche il dialogo con la sede espositiva stessa, un'esposizione che è doppia perché anche a Firenze, a Palazzo Pitti, vi è un motivo dialogico con Venezia. Ne parleremo a breve con la curatrice o co-curatrice Silvia Burini. Intanto una piccola introduzione, mettiamo anche a commento a proposito di avanguardia in Unione Sovietica, elettronica, minimal glitch, strutture che abbiamo presentato in altri suoni, che andremo in intersezione portandole con la tradizione non solo uzbeka ma anche russa. Le avanguardie artistiche in Unione Sovietica è un importante e influente fenomeno che per il XX secolo fu attivo durante la caduta dell'impero zarista e l'inizio dell'Unione Sovietica. Quindi alla fine dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, fino ad arrivare agli anni 30 e anche oltre. Alcuni indicano i suoi inizi nel 1850 e la fine nel 1960. Il termine comprende numerosi distinti, ma altrettanto strettamente connessi movimenti artistici. Beh, cubo futurismo è l'insieme di queste due realtà che trovano in Unione Sovietica un'esplosione di bellezza estetica, con il grande Malevich, per citare una figura importante tra i pilastri fondamentali dell'avanguardia, e anche vorrei aggiungere l'immenso Kandinsky, no? Tra l'altro quattro opere inedite di Kandinsky si troveranno in questa esposizione. Le avanguardie artistiche russe si manifestano nella loro massima creatività, come ho già detto, durante la rivoluzione russa del 1917 fino all'inizio degli anni 30, quando si scontrano con l'arte nel realismo socialista, coincide con l'ascesa politica della figura di Stalin. Intanto iniziamo allora, per quanto riguarda invece questa motivazione dialogica, con uno sguardo a Oriente, un'avanguardia del deserto, questa parte di Asia centrale, una macro regione che comprendeva ora diversi stati, ma che all'epoca era il Turkestan, e quindi uno sguardo a Oriente molto particolare, molto intenso e di ispirazione forte per questi giganti dell'avanguardia, e con alcune sedi espositive che a sua volta sono protagoniste all'interno del percorso in mostra di cui parleremo a breve. Scopriremo come tutto ciò ha donato non solo bellezza, ma anche una crescita culturale veramente intensa. Dal 17 aprile, ma sarà fino al 29 settembre, Uzbekistan, l'avanguardia nel deserto. Siamo a Venezia, a Ca' Foscari, siamo con la co-curatrice che salutiamo. Buongiorno e benvenuta, Silvia Burini. Buongiorno. Come mai Uzbekistan? L'idea è stata quella di cominciare a mostrare delle opere in quello che era il territorio dell'ex Unione Sovietica, ma ancora prima un paese mitico come il Turkestan, mai viste in Occidente, e raccontare una storia che conoscono i collezionisti, che conoscono gli specialisti, che è legata alla figura di Igor Savitsky e del museo di Nukus, che è stato indicato dal Guardian come il Louvre del deserto. Ed è un'esposizione che riporta comunque in maniera eterogenea diverse realtà di opere. Entrando in mostra, con che percorso? Allora, la mostra si chiama L'avanguardia nel deserto ed è stata pensata in due sedi. Una prima parte è stata inaugurata il 15 a Firenze, a Palazzo Pitti, nelle Gallerie degli Uffizi. La seconda parte ieri a Venezia, a Ca' Foscari Esposizione, l'Università Ca' Foscari. Parte di Palazzo Pitti si chiama La luce e il colore, quindi entrambe le mostrano lo stesso titolo, L'avanguardia nel deserto. Palazzo Pitti, che avevo voluto sottolineare di più la presenza di questi elementi, quindi luce e colore, nelle opere di una galassia di artisti di molte etnie che però in questa zona, in quello che dicevo era il Turkestan e poi è diventato Uzbekistan, hanno creato una scuola nazionale che io ho proposto di chiamare Avanguardia Orientalis. A Venezia forma e il simbolo, andiamo alle radici e di questa formazione, di questa scuola nazionale, che è anche la prima scuola di pittura da cavalletto in questa zona, dato che essendo una zona islamica, tradizione artistica relegata soprattutto a manufatti di arti applicate e architettura, quindi a Venezia indaghiamo il legame tra questo sorgere, diciamo siamo agli anni 10 del Novecento quando comincia questo fenomeno e noi lo indaghiamo in questa mostra fino al 37, il sorgere, dicevo, di questa scuola legata ai maestri di questi artisti multietnici, perché si tratta di un dialogo interculturale, gli artisti vengono da un oriente molto vasto, vengono dalla Siberia, vengono dalla Russia, dall'Europa orientale, dall'Ucraina, dall'Armenia, dalla Georgia, sono artisti che vengono dalle zone di insediamento, quindi dove stavano gli ebrei in Russia, quindi abbiamo veramente una galassia eterogenea. Però, dicevo, c'è un legame forte con la grande avanguardia russa, cioè con i nomi che tutti conosciamo. E anche se non sono stato sul Bosforo, a te io lo inventerò. Tanto è lo stesso, i tuoi occhi come il mare ondeggiano di un fuoco azzurro. Breve poesia tra simbolismo, troveremo anche aspetti più legati a una struttura futurista dal grande autore Sergei Esenin, di cui ho preso alcuni piccoli poemi per accompagnare un aspetto visivo e poetico all'interno di questa esposizione. Intanto stiamo ascoltando Turgun Alimatov, che è un musicista uzbeko ed è stato un carismatico esponente della musica uzbeka tradizionale, e suona questo strumento che stiamo ascoltando dal nome impronunciabile, fra l'altro, che cercherò di informarmi e di leggerlo meglio, insomma, anche perché è una sorta di liuto, chiaramente, come potete sentire, a corde, a tradizione, a scala, a percorso persiano, e nello stesso tempo mantiene un dialogo con una originalità che arriva dalla vicina provincia turca di Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan. Sono tutte le realtà di un'Asia centrale che, in dialogo con le avanguardie russe, come abbiamo ascoltato da Silvia Burini, hanno dato percorsi ed estetiche e non solo, crescita culturale veramente molto forte. We'll be right back. trasformano in elettronica, in ambient, in questi glitch, anche in noise se vogliamo. Beh, l'affilatore di coltelli di Malevich, se ricercate questa immagine, dà l'idea di un suono nello stesso tempo, di un percorso che dalla tradizione arriva con la motilità ad essere vera e propria bandiera del cubo futurismo. Quindi procediamo con la presentazione attraverso la co-curatrice Silvia Burini per saperne di più entrando in mostra. Quindi Kandinsky, Falk, Popova, Stepanova, Rodchenko, Lentulov, questi sono anche in mostra a Venezia. Exter, quantità e con quadri anche di alto livello. Allora, perché ci sono queste opere? Per due motivi. Uno, perché come dicevo, questa è la matrice da cui molti di questi artisti prendono per poi sviluppare un proprio stile personale. Molti di questi artisti nominati sono stati i maestri di quelli che sono gli artisti dell'avanguardia orientalis, e il primo tra tutti è Alexander Boykov, un russo d'Oriente che è un po' considerato il padre di questa avanguardia orientale. Poi abbiamo i suoi allievi, Karakhan, Tatevossian, che è di origine armena, Kashina Karavai, che sono tutti e due provenienti dalla zona della Siberia, Kurzin, Ustomomin, che era un pittore russo Nikolaev, che poi si converte e cambia perfino il nome. Quindi abbiamo veramente un melting pot incredibile, e io credo che proprio la parola chiave sia dialogo, è un dialogo interculturale molto fruttuoso che si crea proprio in questa zona. L'altro motivo per cui ci sono queste opere giustapposte, perché in mostra poi abbiamo molte opere della grande avanguardia russa, tra cui quattro Kandinsky, di cui due mai visti in Occidente, è perché noi per la prima volta in questa mostra abbiamo messo in relazione le opere che vengono dal museo di Nukus, quindi questo che prima ho detto denominato come il Louvre del deserto, e le opere del Museo Nazionale di Tashkent, dove già nel 20 arrivano 59 opere della grande avanguardia russa mandate dallo stesso Rodchenko o Kandinsky, che erano i direttori del dipartimento che si occupava del trasferimento di opere di arte contemporanea in tutti i musei regionali della Russia. Quindi abbiamo messo in relazione queste due raccolte, Nukus, Tashkent. Abbiamo fatto vedere la genesi di questa scuola nazionale a cui abbiamo dato questo nome. Non mi piacciono le etichette, ma in qualche modo bisogna pur chiamare questa forma di avanguardia, perché si tratta di avanguardia, nel senso che sono artisti che fanno veramente qualcosa di nuovo in una terra dove non c'era questo tipo di esperienza. Guardiano che stai oltre le nubi, le azzurre porte del giorno. Un angelo bianco questa mezzanotte si è portato via il mio cavallo. Dio non ha bisogno del superfluo. Il cavallo invece è la mia forza, il mio sostegno. Io lo sento come nitrisce di dolore, mordendo la catena d'oro. Vedo come si dibatte, si scuote, cercando di strappare il duro laccio. E vola via da lui, come dalla luna, il suo pelo di Sauro nella nebbia. La catena d'oro, la citazione alla vittoria sul sole di Malevich, bello. Portato via questo, guarda che Dio non ha bisogno di questo, che per lui è superfluo, eh. Lo stai anche facendo soffrire, lo stai sprecando, sta perdendo il suo vello. E la catena è una catena d'oro, come la vittoria sul sole è un sole dorato, che però è rappresentato come un cerchio, prima nero, e che diventa poi allo stesso modo spigoloso su uno sfondo bianco, un esempio di avanguardia, la vittoria sul sole, quadrato nero su sfondo bianco. Sarà anche un'opera di teatro d'avanguardia. Questo svelare al pubblico la mostra Uzbekistan, l'avanguardia nel deserto, una pagina di storia artistica che è poco conosciuta, aggiungo io purtroppo, quindi grazie a chi ha curato questa esposizione della prima metà del XX secolo, un prestito, oltre 100 opere provenienti dal museo di Tashkent, ora capitale uzbeka, e da quello di Nukus, da tempo definito come il Louvre del deserto. È curata da Silvia Burini al nostro microfono e Giuseppe Barbieri. La mostra evidenzia la connessione tra l'avanguardia russa e l'arte dell'Asia centrale. Hey! voluto portare un melting pot di suoni, come del resto il melting pot di territorio che purtroppo conosciamo poco, ma che oltre ad avere una bellezza e un'estensione, una storicità quanto mai intensa, quando poi ha conosciuto le avanguardie dalla vicina Unione Sovietica, ha avuto modo di esplodere in questa estetica, in questa diffusione e approfondimento. Parliamo un po' di musica. Abbiamo ascoltato dalla steppa della Russia centrale la formazione Loico. Ho portato brani anche dalla tradizione turcomanna con l'Istanbul Oriental Ensemble e poi, come base per la conversazione con Silvia Burini, musica tradizionale dall'Uzbekistan, con questa avanguardia invece che stiamo ascoltando in questo momento da Fizzarrum, dalla Russia, tra elettronica, glitch pop e ambient. È il momento di andare in pubblicità, si ritorna subito dopo per procedere nella presentazione di Uzbekistan, l'avanguardia nel deserto. È a Ca' Foscari, esposizioni, la mostra aperta adesso praticamente sarà fino al 29 settembre 2024. A tra poco. Thank you. nome della formazione, sto cercando di tradurre dal cirillico, magari è RSR, no? Sapete che alcune lettere corrispondono in maniera totalmente diversa. Il brano però è Jazz Bubble che stiamo ascoltando. Abbiamo parlato di avanguardia, continueremo a parlare di avanguardia russa e avanguardia in Unione Sovietica. Beh, direi che questo esempio tra elettronica e anche grande capacità cromatica di gusto, per il lavoro portato da Domino Record, anzi da Low Recording, scusate, Low Recording. Anche di una figura al quale si deve tanto, è la leggendaria figura di Savicki, che è la base del percorso, di cui ci parlerà la co-curatrice Silvia Burini. Tra gli obiettivi di questo intellettuale, far conoscere al pubblico e non solo per gli addetti ai lavori, una personalità essenziale per preservare, tramandare molti aspetti, e non solo dell'arte del XX secolo, ma del complessivo cultural heritage dell'Uzbekistan. A lui si deve tanto per la ricerca riportata sia nella tradizione e per quanto riguarda il deserto del Karakalpakstan nella parte nord-occidentale dell'Uzbekistan, la costituzione, pensate, di una delle più grandi collezioni d'arte d'avanguardia russa nel mondo, seconda in termini di quantità solo a quella del Museo Russo di San Pietroburgo. Ecco, se andate a San Pietroburgo, mi raccomando, precedenza al Museo di Storia Russa di San Pietroburgo. È qualcosa, io praticamente hanno dovuto buttarmi fuori, è unica testimonianza, come ho detto, di uno dei più importanti movimenti artistici della storia russa del XX secolo. Archeologo, pittore per diletto, talento, collezionista, per felice ossessione, così nella sua biografia, dalla fine degli anni 50 fino agli anni 70 del Novecento, Savicki ha raccolto a Nukus, questo Louvre del deserto, migliaia di reperti archeologici, manufatti di artigianato, arte popolare, affiancandoli col tempo ad altri e molte migliaia di dipinti e fogli di grafica provenienti dall'Uzbekistan e dall'Unione Sovietica. A questo ho voluto dare appunto colonna sonora. In conclusione, ci congediamo con Silvia Burini per questa piccola ma intensa lezione di storia dell'arte e parliamo appunto anche di questa straordinaria figura. A Firenze abbiamo anche fatto vedere un po' la tappa iniziale all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, quando i primi pittori russi orientalisti arrivano in questo territorio e però non entrano in connessione con la cultura del territorio, ma fanno quella che è una, come dire, una specie di reportage pittorico dell'architettura, dei tessuti, delle arti applicate. Mentre i nostri artisti, quelli che ho nominato dell'avanguardia orientalis, entreranno in dialogo con questa tradizione, ed è per questo motivo che un altro elemento della mostra è la presenza anche di tessili, di susanè, dei tappeti tradizionali uzbeki, di chapan, che sono gli abiti tradizionali, di ricami, di kebucheiki, cappellini, perché diventano una lingua che questi artisti usano nella loro pittura. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata questa figura leggendaria a cui sono stati dedicati anche film e anche insomma molte pubblicazioni, che si chiama Igor Savitsky. All'inizio lui era un archeologo, poi era comunque un pittore di origine ucraina che comincia a fare delle spedizioni in Corasmia, quindi in questa zona dove poi farà anche molti ritrovamenti archeologici, e deciderà già negli anni 50 di raccogliere questi reperti, poi di fondare negli anni 60 il museo di Nukus, che dopo la sua morte nell'84 gli è stato dedicato. In questo museo ci sono più di 100.000 reperti, tra cui anche una grandissima collezione di quadri, quelli che noi abbiamo scelto, e di grafica che lui ha raccolto in Unione Sovietica, cioè non era un collezionista privato, raccoglieva quei soldi del Ministero della Cultura, e riuscendo in questo modo a mettere insieme questa che è una delle più grandi collezioni di avanguardia del mondo, seconda solo al Museo Russo di San Pietroburgo. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno incredibile che non è mai stato mostrato in Occidente. E questo sarà fino al 29 settembre 2024, Ca' Foscari, siamo a Venezia, Uzbekistan, l'avanguardia nel deserto. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Burini per questa piccola ma intensa storia dell'arte in una zona tutta da scoprire, e ci diamo appuntamento per un altro motivo di conversazione a In Mostra su Radio Città Fujiko. Grazie e buona giornata. Grazie a voi. Mixare musica uzbeka con la tradizione del Turkestan fino ad arrivare alle emozioni dell'avanguardia elettronica, alla tradizione allo stesso tempo della Russia asiatica, non è certamente compito facile, però insomma per una colonna sonora che ha previsto un impegno abbastanza intenso, come del resto intenso è il percorso per conoscere l'Uzbekistan e le avanguardie nel deserto, che sarà fino al 29 settembre. La mostra è a Venezia e a Ca' Foscari. Ci tenevo a sottolineare appunto questa esposizione, ringraziando la co-curatrice Silvia Burini. Ma anche allora, quando in tutto il pianeta passerà l'inimicizia fra le tribù, spariranno la menzogna, la tristezza, io glorificherò con tutto il mio essere di poeta la sesta parte della terra, che ha un breve nome, Rus. Chiuso con le parole di Esenin questa puntata, se vogliamo, a volte un po' noise, un po' disordinata, ma sempre con grande passione. La rubrica In Mostra giunge al termine alle 8:49 minuti per dare appuntamento a domani in scena, doppio appuntamento per quanto riguarda la rubrica Casa Sipario sui 103.1. Grazie per l'attenzione, ascoltatrici, ascoltatori, mattiniere, super mattiniere, super mattinieri. Domani alle ore 7 ci ritroviamo con la prima colazione in diretta con il Breakfast Club, a breve l'EDP enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa dalle 9:30 e poi il grande rock con il rock di Andrea Gozza per quest'oggi, che sarà sui 103.1 fino alle 12:30. Questa è la mattinata di Radio Città Fujiko per giovedì 18 aprile. Dal vostro William Piana, grazie per l'attenzione, con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, a domani mattina con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti.